A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. C'è l'azienda che lavora per la base americana di Sigonella e prima di tutto viene da chiedersi se effettivamente la Marina Militare statunitense potesse non sapere di lavorare con la mafia. Poi c'è l'agriturismo del Senese, che produce vini pregiati e salami di cinta in una zona di massima attrazione turistica. L'una faceva parte dei beni tolti a Michele Aiello, l'altra della maxi confisca a Vincenzo Piazza, l'uomo che fu padrone di Palermo coi suoi 64 palazzi sparsi per la città e con un tesoro stimato per difetto negli anni 90 in 1.100 miliardi. Hanno origini storie diverse, ma queste due società, come molte delle 1.600 confiscate alle mafie, sono state traumatizzate, diciamo così, dall'intervento dello Stato, che paradossalmente se le ha tolte dalle mani dei boss e le ha anche spesso strappate alle dinamiche del mercato, come già più volte in A ciascuno il suo abbiamo denunciato. Anche perciò il mondo delle imprese introduce manager specializzati per salvarle. 64 sono quelli già formati e ora ufficialmente messi a disposizione da Asso Lombarda alla magistratura e ai ministeri della giustizia e dell'interno, e noi li abbiamo incontrati per capire perché solo il 4% di aziende sopravvive allo Stato e sopravvive più al sud che al nord. E da qui allora parte questa puntata di A ciascuno il suo, da uno studio sintetizzato da Marella Caramazza, manager della fondazione Istud. Non hanno una vita aziendale, inoltre ci sono 372 aziende di cui non si dispone di informazioni, perché alcune sono totalmente prive di informazioni, mentre altre sono in fase di aggiornamento. L'anzianità media delle confische è di 9 anni, qui bisogna aggiungere mediamente circa 10 anni del periodo dal sequestro alla confisca, quindi parliamo di aziende vecchie. La mortalità è maggiore alla sopravvivenza, ma va anche detto che la sopravvivenza al sud è decisamente maggiore della sopravvivenza al nord. La capacità di tenere in vita queste aziende si è sviluppata al sud per ovvie ragioni, perché le aziende sono prevalentemente al sud, e c'è un know-how nelle persone, addirittura negli studi professionali. Su 1.516 imprese tolte ai boss, solo 57 risultano tuttora attive sul mercato e 67 hanno dipendenti, che temono però seriamente e realisticamente di perdere il lavoro insieme ai clienti. Dalla Lara SRL, l'azienda di Sigonella che presta forniture alla Marina Americana, all'agriturismo di Sovignano, che pur potrebbe invece fatturare 50.000 euro ad ettaro coltivato. Tutte occasioni perse, ripetono gli amministratori. L'ARA ha sede a Motta Sant'Anastasia, che è stata costituita nell'89, ha iniziato dopo qualche anno la sua attività, sequestrata nel 98 e confiscata nel 2000. Il reddito operativo è assolutamente negativo, così come il reddito netto è un sostanziale pareggio, ma è solamente dovuto ai contributi speciali dell'Unione Europea. Quindi un segnale di crisi sia produttiva che gestionale. Noi pensiamo che l'azienda possa valutare un riposizionamento strategico in modo da incrementare sia valore che efficienza che produttività. Noi crediamo però che Sovignano abbia ancora spazi per migliorare queste sue condizioni, proprio grazie al patrimonio immobiliare che ha e alla sua posizione strategica in una localizzazione di assoluto pregio. In realtà così l'arrivo di manager specializzati significherebbe la trasformazione da un fallimento ad un possibile successo anche economico, con cifre da manovra finanziaria, rimarca il direttore dell'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, Giuseppe Caruso. Ci sono anche i mafiosi, purtroppo, attrezzati con la consulenza di fior di professionisti per fare in maniera tale che questa ablazione dei loro patrimoni illecitamente acquisiti fosse quanto più complicata. Per togliere e destinare questi beni noi troviamo tanti e tali criticità che diventa veramente estremamente difficile. Per quanto concerne i cespiti patrimoniali singolarmente confiscati, siamo nell'ordine, a proposito delle criticità, dell'85% circa, di cui più della metà le ipoteche, le rimanenti criticità per quanto concerne atti che determinano la comproprietà. Cosa abbiamo rilevato nel momento in cui abbiamo preso in mano questa agenzia? Abbiamo potuto verificare come la gestione dei beni, sia beni mobili e immobili, sia aziende, abbia avuto da parte degli amministratori giudiziari un atteggiamento prettamente conservativo, che poi sia riconducibile al fatto che dal sequestro alla confisca passano mediamente o sono passati dagli 8 ai 10 anni, ci sta pure, ovviamente è un'azienda assolutamente decotta. Per cui abbiamo rilevato che cosa? Che in relazione alla complessità di queste aziende dovuta alle criticità che hanno volutamente frapposto i mafiosi nella costituzione di queste aziende, non è più sufficiente l'amministratore giudiziario che abbia un'estrazione commercialista. Abbiamo fatto rilevare che ora come ora, per poter procedere ancora più efficientemente e efficacemente nella destinazione soprattutto delle aziende, noi abbiamo bisogno di amministratori giudiziari che abbiano racchiuse nelle loro competenze queste doti di commercialisti, forensi e soprattutto gestionali, che fino adesso non hanno avuto. Adesso c'è poco da fare se non la maggior parte di vendere o di liquidare. Ipoteche, lentezze delle procedure, troppa burocrazia, alcune delle malattie che contribuiscono alla morte delle aziende strappate ai boss, insieme ad un paradosso. Una volta che arrivano nelle mani dello Stato, queste società si vedono subito negati quei finanziamenti delle banche su cui prima invece contavano. Le banche, cioè, si fidano di più delle mafie che dello Stato. E per questo a Milano, al tavolo per la giustizia avviato in tribunale, siede anche l'associazione bancaria, perché non si è più tolto il sostegno economico quando interviene lo Stato, rende esplicito Giuliana Merola, presidente delle misure di prevenzione del Tribunale Meneghino. In Lombardia la maggioranza delle società sequestrate sono SRL. I temi sono per di più nell'edilizia, movimentazione terra, macchinette, video con conseguente elusione, perché non vengono pagate, non viene pagata nessun tipo di tassa imposta allo Stato, bar tabacchi, ultimamente tanti transfer money. L'impronta che viene data al momento del sequestro segna il bene, non c'è niente da fare. Una gestione oculata iniziale può portare a un percorso positivo e una destinazione. Uno sbaglio che può capitare, soprattutto per le aziende in una gestione, può determinare la liquidazione o il fallimento della società. Nell'ambito proprio di quest'ottica fa parte di questo tavolo, e ha già firmato il protocollo, l'Associazione Bancaria Italiana e la Banca d'Italia, proprio perché appena arriva il sequestro le banche revocano i fidi e determinano quindi problemi di liquidità dell'azienda. Si è quindi raggiunto, diciamo, questo accordo per il quale l'ABI sensibilizzerà le banche, gli istituti, a non revocare immediatamente solo per il fatto del sequestro, ad aspettare quel breve lasso di tempo entro il quale poter valutare se una società può o non può essere salvata e può proseguire nell'attività aziendale. Da una parte dunque il mondo delle imprese impegnato a salvare le aziende confiscate, dall'altra però ci sono altri pezzi di quello stesso mondo che continuano ad aprire le porte ai clan in silenzio, e da qui ripartiamo nella seconda parte di A ciascuno il suo. A ciascuno il suo. La vista toglie il fiato. La Calabria e la Sicilia insieme in un solo colpo d'occhio. Un panorama perfetto per turisti. Un panorama che prima o poi potrebbe spettare allo Stato gestire e saper mettere a frutto se il sequestro diventerà anche confisca definitiva. Anche due hotel di lusso, infatti, di Reggio Calabria, il Grand Hotel e il Plaza di Villa San Giovanni, sono tra i beni tolti ad imprenditori considerati vicini ad alcune delle cosche più importanti dell''Ndrangheta, i Tegano, i Condello e i Siclari, come ha ricordato il procuratore aggiunto Regino Ottavio Sferlazza. Sono due imprenditori particolarmente, direi, spregiudicati, la cui attività imprenditoriale è sempre stata connotata da rapporti operativi, da collusioni molto strette con le cosche più significative di Reggio Centro, per dire la cosca Condello, Tegano e Libri, e si tratta di Sicla di Pietro e Rappoggio Pasquale. La vita può cangiare a canterò. L'Andrangheta dunque investe anche negli alberghi di lusso, come aveva fatto Cosa Nostra con l'agriturismo nelle campagne toscane di cui parlavamo nella prima parte, o come fanno sempre tutte le mafie, che sanno perfettamente scegliersi gli investimenti redditizi. E anche per questo la confisca di un'azienda non può trasformarsi nella sua morte, come invece i numeri che abbiamo ricordato in A Ciascuno il Suo denunciano: su 1516 imprese confiscate, solo il 4% sopravvive. E allora, per invertire questa rotta, un accordo tra Asso Lombarda e il Viminale ha portato alla formazione di 62 manager specializzati pronti ad occuparsi proprio di queste aziende per salvarle, spiega il presidente di Asso Lombarda, Alberto Meo Martini, che concorda con il procuratore Ilda Boccassini sui silenzi complici delle imprese. Gli anticorpi non sono sufficienti, ammette il presidente degli industriali lombardi. L'obiettivo principale ovviamente è quello di dare continuità di vita aziendale. Perché quando si sequestrano o si confiscano dei beni immobili è facile dare una destinazione anche simbolica. Palazzo sequestrato a un mafioso o a un camorrista può diventare sede di un asilo nido, di una scuola. Ma quando si sequestrano e si confiscano aziende diventa più difficile. Molte non sopravvivono perché viene affrontata la gestione con criteri, diciamo, da liquidazione, perché mancano le competenze specifiche. Anche perché i tempi tra il sequestro e la confisca sono in Italia mediamente molto lunghi. Quindi con questo progetto abbiamo messo a disposizione dei manager, segnalo peraltro che c'è una interessante quota di donne manager, pronti a coadiuvare l'autorità giudiziaria nell'affrontare questi problemi di gestione fin dall'inizio, il sequestro e poi anche in quella della conquista. Questo è l'obiettivo principale, dare continuità all'azienda, quindi creare delle strutture che consentano di gestire questa società. Poi c'è un obiettivo ovviamente che è altrettanto importante, è quello di dare un contributo molto pratico, molto pragmatico del sistema imprenditoriale alla lotta contro la criminalità organizzata, che non è confinata al sud, anzi direi che vede nella nostra città e nella nostra regione una delle presenze più significative. L'abbiamo fatto insieme alle istituzioni, in tempi che nessuno pensava che saremmo stati capaci di rispettare, perché tra la volta che l'ho annunciato Radio 24 ed oggi è passato un anno, abbiamo fatto un grande lavoro insieme agli altri, ed è un terzo significato: da solo nessuno può fare niente. Il prefetto Caruso, tra gli altri, denuncia come il valore di queste aziende tolte ai boss rappresenta quasi le cifre di una manovra finanziaria, quindi un valore altissimo che soprattutto in tempi di crisi l'Italia non si può permettere di perdere. A questo punto la domanda è: come andare avanti? La palla passa soprattutto alle istituzioni centrali o in qualche modo c'è già un progetto già definito? Noi vorremmo in generale che la palla non passasse mai a degli altri disinteressando. Certo, c'è dei momenti in cui la palla è nelle mani di altre istituzioni, ma noi non possiamo disinteressarci. Sta già avvenendo che questo tipo di progetto si diffonda anche su altri territori. Sono emerse alcune palesi necessità di piccole modifiche normative, o anche per esempio la necessità che il sistema bancario, che è già coinvolto positivamente, si comporti nei confronti di queste aziende sequestrate e confiscate con una certa prudenza. Non si può togliere da un giorno all'altro il credito, i fidi. Continueremo anche con altri manager, andremo sul territorio nazionale, valuteremo insieme alle istituzioni quelle che sono le modifiche da fare. Ma c'è già qualcosa per, diciamo, introdurre concretamente questi 64 manager già formati in alcune realtà già individuate o ancora no? Noi abbiamo individuato dei casi specifici. È molto interessante immaginare anche questo contributo possa essere attivato fin dall'inizio come consulenza da parte di questi manager. E questa è una risorsa importantissima, perché è nelle prime fasi, quando siamo ancora in fase di sequestro, che si stabilisce in un qualche modo il destino di questa azienda. Quindi è bene che in questa fase ci siano competenze di natura giuridica, ma ci siano competenze affiancate a quelle della magistratura di natura gestionale. C'è il messaggio di fondo che è molto importante, dove queste aziende chiudono, la gente che lavorava, che senza lavoro, pensa: ma allora era meglio con la criminalità organizzata, almeno c'era lavoro. Quindi questo progetto, che continuerà più attente, non tutti siamo così coinvolti oramai che non vogliamo perdere un minuto di lavoro, deve anche dare segnali che non è vero che con la mafia si vive e con la legalità non si vive. Questo quindi questo vuol dire anche che ci saranno adesso, cioè a ciclo continuo, questi cicli adesso, di formazione del manager oppure? Adesso vediamo, valuteremo l'esperimento, certo non lo escludo, anzi direi che la fisiologia che si continui, vediamo adesso come riusciamo, diciamo, a mettere a disposizione queste risorse. Abbiamo simbolicamente consegnato in cui questi manager a tutti i rappresentanti delle istituzioni. Dipenderà anche dalla creazione di questo albo specializzato che è stato sollecitato e auspicato e mi sembra sia in dirittura d'arrivo. Sì, cioè il problema è molto semplice, cioè ci sono delle risorse a disposizione, c'è una grande passione, c'è un tema condiviso, definito, ecco, quindi tutti quelli che sono ostacoli di cui talvolta il nostro paese è ricco quando bisogna frenare buone iniziative vengano tolti. Ma ripeto, il fatto di aver fatto questo lavoro non isolati ma insieme a tutte le istituzioni ha messo già a disposizione delle istituzioni un patrimonio di conoscenza dei problemi reali molto concreti, siccome poi le cose che sappiamo fare noi sono sostanzialmente molto concrete, e quindi questo sarà già un contributo. Abbiamo visto i punti deboli, abbiamo visto che le banche dati oggi esistenti su queste aziende sono insufficienti, andranno migliorate, ma sono tutte cose che si possono fare. Devo dire la verità che poche volte in vita mia ho visto in un progetto di lavoro tanta motivazione e passione. Hanno una mortalità più alta le aziende del nord, tolte ai boss e ahimè vediamo che sono aziende numericamente sempre più significative e anche qualitativamente, oltre che diciamo geograficamente, graficamente rispetto a quelle confiscate al sud, come mai? A sud Italia per la iniziale maggiore numerosità dei casi si è sviluppata una maggiore competenza dei tribunali nell'affrontare questo problema, perché dicevo, siccome in Italia c'è un lungo lasso di tempo tra il momento del sequestro, il momento della confisca, bisogna essere preparati e pronti a mettere in atto fin dall'inizio gli interventi che possono permettere la sopravvivenza. Diciamo che c'è più know-how. Le aziende hanno un'alta mortalità perché sono aziende che spesso non rispettano i diritti dei lavoratori, spesso non hanno problemi di finanza, spesso non hanno contabilità. Quindi nel momento in cui si cerca di organizzarle, molte di queste non riescono a sopravvivere. Ma gli investimenti a criminalità si rivolgono dove maggiore è il livello di attività economica. Quindi la nostra regione è a rischio. La Sommada è stata la prima associazione a dire che i problemi della criminalità organizzata non sono problemi del sud, perché l'idea di immaginare che i problemi siano sempre degli altri non ci porta molto avanti. Credo che abbiamo fatto un buon passo. Dimostra che da Milano c'è un segnale di partecipazione ai temi della vita civile molto importante, non solo economica. Da una parte, da qui, appunto, dal cuore dell'imprenditoria lombarda, da Asso Lombarda, la messa a disposizione di manager pronti a prendere la gestione, quindi salvare le aziende confiscate. Dall'altra parte, le inchieste che partono sempre da qui, da Milano, denunciano ancora una volta come da parte di molti imprenditori in realtà non ci sia questa collaborazione nelle inchieste. Abbiamo già più volte detto come la Confindustria si è fatta promotrice di protocolli di legalità per espellere chi non denuncia, però a quanto pare i dati sembrano mostrare che anche questi segnali forti ancora non bastano, sembra esserci quasi un doppio canale diverso nel mondo imprenditoriale lombardo. Quello che lei dice è vero, io potrei naturalmente rispondere, noi in Asso Lombardo non abbiamo fortunatamente casi di questo genere. Primo, che io sono d'accordo con la dottoressa Boccassini, so che molti miei colleghi non sono d'accordo quando dicono che ovviamente gli anticorpi non sono sufficienti, e i miei colleghi dicono ma io non sono colluso con la mafia, neanch'io sono colluso con la mafia, però quando vedo un imprenditore, anche se sono associato a Lombarda, anche se sono imprenditore del ramo della distribuzione piuttosto che quello diciamo dell'industria, penso che gli anticorpi non siano sufficienti. È il motivo in più per fare qualcosa in più. Noi pensiamo che è nostra responsabilità siano legate solo alle cose di cui siamo direttamente responsabili. Ignoriamo il concetto di comunità, perché Milano è una società che è cresciuta economicamente e socialmente perché quello che oggi chiamiamo establishment, un tempo chiamava la borghesia, 100 anni fa ha pensato che bisognasse uscire fuori dai confini della propria fabbrica, del proprio studio professionale e dare qualcosa alla comunità. Poi si è perso nel tempo. Oggi si sta riprendendo di fronte a una minaccia della criminalità, comunque si sta riprendendo. Secondo me c'è una reazione. Poi non sarà mai sufficiente. Questo è uno dei classici casi in cui, come la sicurezza, facciamo tanto, ma non è sufficiente. Lo facciamo con convinzione perché questa è la nostra vita e penso che sia la vita del nostro territorio. E vi ricordo che a Milano nel prossimo weekend si terrà il primo festival dei beni confiscati alle mafie. A ciascuno il suo, termina qui. Come sempre potete riascoltare questa come tutte le altre puntate dal sito radio24.it, ci trovate sulla pagina Facebook di Storiacce, sul blog Storiacce, mentre su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.